GR Sport. Buongiorno da Dario Ricci, da dominatore delle salite del Tour alla notte passata in gendarmeria. È la parabola di Riccardo Riccò, caduto nella rete dell'antidoping. Sentiamo. Non cambia il ciclismo, sempre uguale a se stessa, questo volto smunto e tirato di corridore braccato. Dopo Beltrán e due NAS, ecco Riccardo Riccò, fermato per Epo di ultima generazione a lento rilascio. Si chiama Nirsera, un prodotto nuovissimo, usato non da più di un anno in ambito ospedaliero nella cura dei pazienti con gravi insufficienze renali. Ore e ore di interrogatorio davanti alla gendarmeria di Mirepoix, a 150 km da Narbonne. Rischia grosso il modenese, fino a 5 anni di prigione, di sicuro 2 anni di squalifica sportiva, non appena le controanalisi ufficializzeranno la positività come da regolamento. Era vinto Mark Cavendish, in maglia gialla c'è sempre l'australiano Cadel Evans e il nostro Vincenzo Nibali ha la maglia bianca di miglior giovane, che era di Riccò. È meno esplosivo, fa meno scena, ma noi non vogliamo più sceneggiate. Oggi 13ª tappa, da Narbonne a Nîmes, 182 km, tappa che non dovrebbe influire sulla classifica. Pier Augusto Stagi, GR24, Sole 24 Ore, Narbonne. Ma cos'è la Nirsera, la sostanza dopante di cui avrebbe fatto uso Riccò? Ce lo spiega Antonio Dal Monte, capo del Dipartimento di Fisiologia e Biomeccanica dell'Istituto di Medicina dello Sport del CONI. Questa è una specie di eritropoietina retard, cioè direi una medicina di cui basta una iniezione per 15-20 giorni, un mese. L'effetto è quello della eritropoietina. L'eritropoietina è una sostanza che, a prezzo di rendere più duro, più denso il sangue, permette però al sangue di trasportare più ossigeno alle varie parti del corpo che lavorano. Spazio al calcio in 30.000 ieri sera a San Siro per la presentazione ufficiale di Ronaldinho, nuova stella rossonera. Intanto l'Inter continua a inseguire l'inglese Lampard. Moratti a Sky Sport. Dipende molto dalla volontà espressa del giocatore. E quindi anche noi stiamo aspettando questa volontà espressa. È un ragazzo molto serio, quindi è certamente in bilico fra una situazione che è la sua piacere di fare una cosa e il suo senso di dovere nei confronti. Tutte e due le cose sono belle e quindi potrà lui alla fine arrivare alla soluzione, insomma. Se ne parlava proprio anche adesso col tecnico di cercare, nel caso non succedesse di fatto Lampard, di cercare proprio il giocatore con le caratteristiche più vicine. Parte oggi il fine settimana dei motori. La MotoGP corre a Laguna Seca negli Stati Uniti. In Formula 1 la Ferrari cerca il riscatto nel Gran Premio di Germania. Felipe Massa. Secondo me possiamo andare bene qui e dopo un risultato un po' negativo per noi puntiamo tutti sicuramente su un buon risultato qui. Per le Olimpiadi nel basket, Yao Ming è tornato in campo e vede sempre più vicini i giochi con la maglia della Cina. La stella degli Houston Rockets ha giocato 12 minuti segnando 11 punti in un amichevole con la nazionale giovanile della Serbia. Yao Ming nello scorso febbraio si era fermato per una frattura al piede sinistro. Scadenza importante, in chiusura oggi per il nuoto italiano. Manca un anno esatto ai mondiali di Roma 2009. Oggi cerimonia ufficiale, mentre il presidente del comitato organizzatore Giovanni Malagò interviene sul discusso uso dei superbody. Noi siamo anche un attimo, diciamo, forti della convinzione che Federica Pellegrini ha fatto l'unico record del mondo senza il nuovo Speedo alle ZR Racer e quindi io credo che è giusto che tutti possano avere a disposizione questi nuovi costumi, questa nuova tecnologia, però poi non è così matematico che tutti lo usino. Vi ricordo l'appuntamento con A Tempo di Sport alle 14, ancora una buona giornata da Dario Ricci.